capito. Chi è? Chi è? Luca, ci sei? Tore, ci sei? Italiere? Buonasera, pisate Denisi. Non ho capito. Alzato ci sei. No, mi sto con il gatto stasera. Ero in officina perché avevo lasciato la macchina in officina, sono sceso presso a ritirarmela. Dopo ero andato sotto in magazzino, mettendo a posto, cosa l'altro, mi adesso sono qua, mi sono coricato. Ehi, va tu, non c'è nessuno, ma neanche Luca. Sono tutti morti. In the call, give me once again your call sign, over. Allora senti? Eia! Stanno facendo i conti, stanno facendo, su 7.000, capito? Ah, stranieri sono. Vabbè. Continue with November Lima 8, give me once again the full call sign, over. Ah, finito. Ma è la 27, Dani. Cosa? Nella 27 erano quelli. Oh, in 7.000 è. No, in decametri che. Ah. Ehi, non si intende nessuno, vabbè Luca starà lavorando. Tra i scilla, basso e tutto. Sì. Penso che sia uscito alle 5, penso, Sarà indaffarato. Ripulendosi, maneggiando qualcosa, e loro lavorano, è chiaro che saranno stanche anche, così che loro mettono in video, siamo sempre freschi. Assolutamente freschi, magari, ma me lo voluto travagliare perché stavo simbolato, per carità. E cosa vuoi fare? E così? Mica sto andando verso le 8:30, ci ho portato la macchina all'officina, io da Rintas, da Buonazzata, anche mi chiuderà scendere in banchisio dal garaggio. Allora mi sono confermo, chiacchierando, siamo andati a prenderci caffè, e così via, doveva scendere in campagna e sì che sarà ancora in campagna lui. Pensai che non comincia a corrigare, ma chi io non si nata la campagna. No, io stamani mi ha dato un appuntamento da un cardiologo, invece quell'altro mi ha detto di chiamare più in avanti perché non vedo Luco per fare le codofle alle gambe. Telefono venerdì a te, cosa mi dici? Fa pigliarmi l'appuntamento io, pure. Ho fatto serio per gli appuntamenti, ho fatto serio, per carità, io devo andare il 23 o il 19, adesso non mi ricordo, se è il 19 o il 23, dovrei guardare il bigliettino che ho. Alla diabete. Avevo fatto già sabato scorso, avevo fatto già le analisi, devo andare a ritirarmi, se non ci salgo domani me le ritiro. Oppure il ritiro, no, ma forse mi conviene ritirarli domani. Così che ho il 19, ho 23 e sono l'appuntamento dall'autoressa io. E vediamo un po'. E allora se tanto mi manderà cosa per all'oculista, perché quasi così, 6 mesi no, 6 mesi sì. Ogni anno mi faceva la vista a luce, capito? Parugoli mi l'ha data a novembre, il 26, figurati. Avanti domani, cioè venne, diciamo, a vedere, fa fare le codopple. Non venne il lucchino. ogni tanto però, quando sei in giro, andi alla cupo, potessi qualcuno si libereggia e ti si vuole in mezzo, capito? E noi siamo così, ogni tanto, quando siamo in questa zona, entriamo e domandiamo se si è liberato qualche posto, oppure no, capito? Bisogna fare pure così. Ehi, già, lo so, no, ma già mi chiamano loro, già, se voglio andare prima. Quando si libera qualcheduno mi chiamano loro e me lo dicono se voglio andare prima, capito? Ah, fate i cucci, non per bisogno che vado io. Se si libera qualche posto mi chiamano e me lo dicono, capito? Se voglio andare prima. Adesso per le codofre non lo so quando... A novembre farò pure la TV qua, il 26 novembre. Allora, ma le copre c'hanno vennali, avevo da medicini, si è liberato un lungo, Se hai a pagamento te lo fanno subito. E chi manco, che allora da pagamento, grazie alle lungo. Ma, dici due stronzate. E se la fuggire, capito, che invece mi siamo sempre noi. Ma me... Non mi interessa, quando a dicembre andavo a Milano. Chi te lo dà a mettere, voleva andare a quando che ti va a luglio, mi pare, per regalare a Edo. Quando ando di cura, devo fare a novembre e l'altra la devo fare quando mi la lasci. E io gli dico sempre così, se la giubbata è bene dopo, se non la giubbata ve lo dico. E non dici nulla, cosa devo fare? La pagamento, anche Marco. E allora ti ringrazio proprio a Ete. Già tenere pure così, con l'impegnativa che entri esci, secondo hai i coci, a razza di visita che ti vanno. Non sono tutti di proprio che te la fanno proprio come si deve, no? L'ultima volta che ti ho fatto la codopra, so che tra 10-2 minuti va a punto. Purtroppo capita anche queste cose, la maggior parte si avrebbero veramente fatta la visita come si deve, come la si deve fare, sarebbe stato l'ideale, ma non te ne fanno così. Più ne fanno meno è per loro, ho capito come stanno facendo in tutti i settori, è così però se riesci a conoscere qualcuno in mezzo tramite le amicizie magari allora qualche cosa in più già mai già li capito. Qualche giorno già lo trovi in gamba, già ne ha già avuto un mese che te la fa bene e ti dice le cose. Ma ragazzi, Burvi non era fatto nulla, come se l'ultima volta abbia fatto le colofre, 2 minuti va a fusto, tutto a posto, non ti abbia trovato, ma dice no, nel collo è a posto, nelle gambe non ci sono, avanno mi ha messo cosa, ma dice, dunque questa per le gambe te la faccio rifare, e me la faccio rifare, e non sai dove andi. E chi mi aveva detto tutto a posto, a chi era in pressa la di no? Fa male no. Bravi so. Non sarei come se mandassi a dirti si in fretta in pressa, un preso. A chi lo bisogna è di mezzo, paiso è. Hanno finito di chi si gosi che ha finito cosa dici. Ah, è dell'interessa che tu ridare impegnati va già assicurato. La giornata, più ne vagini, più ne caccia di impegnati per più di una piccane, non è compreso. E ci sono di miserabili, se ne pigliano bene niente, tanto entra e esci, fa di chi ti vagini in visita, per carità. L'altra volta a San Camillo mi ha detto che bene, non me ne ha portato certificati di altre visite che ha fatto. Beh, mi scusi, a me non me ne hanno detto di portare certificati di visite che ho fatto in altri posti. E cosa ne so, se no glieli avrei portati. A chi da voi magari dice non ne compriamo da coppia, non va di voi, chi l'ha già regalato e maledetta regalo. La giovinità di coppia di chi ci vuoi scritto e la da visita che gli dai. Sarà giusto come ti so, che parla si è via di bis. cazzo. In la futura saedi, ogni tanto c'è un viaggio, arriva che cosa, ma fai in impresa, capito? Però cacciati mare, cacciati mare, la pista è perché fino a cominciare di fare non ve la fatti, beh, ti ha lucrati da chi, poi, bah, insomma, per lì, uno mette l'altro. Beh, che fuoco, allora, ma non sappi il tempo, a scrivere, sì, cosa chiedono, tra patà, la fra, la vista, copia, chi scrive già scritto, in chi si precedenti, che è fatto? Prego, frise, ci si manda. Cazzo, oramai conosco la truppa che si un capo di tutto. A manda da vedere che sia medici così, sia i ripidali. I ripidali non ne va a vedere. Chi dà come i ripidali la voce, ma se non è niente, mi sa che domani la manda a casa. Lì domani viene la dottoressa e dice... Ecco, chi è che gli ha scritto che domani deve andare a casa? Se c'è un polmone chiuso, ma matto è questo. E cosa ne so io? A me mi ha detto così. Ma ho detto, me ne aveva che c'è un polmone chiuso. Ma ne so io. Vabbè di voi, boh. Infatti, con chi si è abbriato questa dottoressa? All'ospedale. Ah, vero? Ma è così, capito? Sembra bellissimo, c'è particolare. Capita, che è disgusta, che è disgusta, per carità, cazzo. E lì ci dovrebbe essere dottore blu più interessante, ma rimarati, per carità, hanno capito educata. Ehi, papà, a me si manda a me subito un compagno di un altro lupo, l'hai compreso? A chi? All'asero li bagani 500 euro a paziente al giorno. Non hai compreso nulla tu, come ti funziona lì, non drichi tratto. Più malato ricovereggiali e più di là in cacciali. Hai capito? E dunque quando esce il massimo desiderio si cucini pura, massimo, non ha giusto buro, i tre di che si danno cucini pura a tutti i buchi mari. E che cosa è trisano e ne scimarando? Oppure è trisano e ne scimarando? Canto un aggiuvisto. Oi, però tipo frutti vendono che andate in giro di posto maggiore. Non va via nulla che sono. Mi dice di mandare un piano di sopra quando me ne sono andato io. E la moglie mi ha telefonato che il marito è morto. Certo, non ti ricordo capiti. Grazie, ma io sono andato dietro di sempre due e ci luoghi, qua ficchi fatti, una ficca sempre, tutte e due mani, paro sicuro. Grazie. Com'è a me, mi si vedeva incrasciare una figlia da sonno, mi si vedeva incrasciare una macchina, chissà che hanno in buccia, chi sono, chi l'ha giusto cosa, la sera ne l'hanno incavata e se l'hanno in buccia da un'altra camera in fondo a tutto. Ha detto io di quella maschera non me ne metto, con quella maschera io non ce la faccio a respirare, non respiro, non è che non ce la faccio, e chi sa mi affoga a prima, cosa mi vuoi da ammazza, un capolo me ne ha giù busto, ha detto se la metta lei io non mi metto proprio niente, non ha capito, c'è anche obbligato di giocare a pulirmi sa ma poi di là giù. E allora mi firma il foglio e mi dia il foglio, gli firma il foglio e mi dice da Google, tu hai chi sa maschera. Chi c'era che ha combinato a mezzo a pare con una botte fuori per graziare, hai fatto bene il tiro al busto. Femmina era, ma pigliata da sonno, se non drummiglio, a Bruno c'è casa e mi rivengo tutte e tre intorno, tre femmine e due maschi via. E dite cosa cazzo state facendo? Non deve mettere la maschera ventilata, non lei se la mette la maschera ventilata, che cazzo mi mette la maschera ventilata? Lei se la deve mettere, anche tu mi comandi, poi di là giù. Cazzo se lo tirate di un pugno a faccia, a te che sa macchina della bonguina, capo a te. A me non me ne ho messo. Allora mi firma il foglio e mi porti il foglio, gli firma il foglio e te la metti tu con la maschera. Io non ho bisogno di quella maschera, non hai compreso nulla. E infatti non avevo bisogno di mettere quella maschera lì, non hai compreso. Anche l'indomani mi l'ha detto l'altro dottore in vita, anche io vi l'ha giurito. E mi l'ha detto pure me figliolo, e poi mi ha ripigliato quando ero drummito. ammazza lui, poi ribeccata. Aspetta che devo, ci sono due morti che vogliono entrare, avanti i morti. Grazie a quelli non partono, non parlo perché sono morti. E beh, entro, non entro, i cadaveri. A dispensa, ma li sono fedi. Non la regala, io non intendo a nessuno. Sì, vabbè, date mai alla messa un poco là. Ah, date un poco là alla messa. Ah, fatti, chi vuole entrare? Molti sono molti, non respirare più, grazie a noi. Mi ha fallito la cosa artificiale, bocca a bocca. A me mi fa sentire di ci sopra moduleggia, li vuole entrare, a voi quando li entrano non vuoi entrare. Oh, io non mi vedo di incazzarmi. Incazzati, grazie, incazzati. Fatti sentire, capo, i taglietti. Avremmo una pigliata, ci vuole entrare agli anni a bestia, per pure un bacone a bestia. Ecco. E anche subito fendevo, si che meglio questo lì, anche se da vuoi rispondere. A Roma con Greci lì, hai capito? Come te la cosa? A chi da chi l'ha giudito cosa? Ha giudito cazzo non se ne ammazzano, se chi sono un bavaccio, non ne va, che vi la devi dire. La liriate vicinale saccata a fusa. Sì, mi sa anche vedere i casi, però grazie. Magari tu non la dici chi sei il caso, magari per forza devi avere chissà maschera, fugarsi pure così, capito? Bisogna vedere, ma se uno si ritiene che non ha bisogno, non ti buoni, catta. E infatti io non avevo bisogno, perché l'indomani l'ho chiesto al medico che c'era. Ne ha bisogno di mettere quella maschera, chi è che gliela avrebbe messa? Ti ha ripreato pure con chissà. Cazzo, apposta mi ce la prima, ma non sei nato, me l'ha messa. Ma chi sarà? Sei d'accordo con le buone fule, per il tragitto. Si vede che va, si fa la gente, va, capito? E ti vorrei ammazzare subito, grazie a... Catta, metto un dato che mai, il vino. E allora, gli abbracci tu cerca di allontanarsi lei e le amiche sue, se no cazzo venuto qui a tutte e tre. Cazzo, ce la metta lì quella maschera. Non mi devo pure proprio risuonare, io non ho bisogno di quella maschera. Chi cazzo di lettere c'ho bisogno di quella maschera? Cazzo, che cosa so, con Mureni? Ma non te niente. Cazzo. Ehi, se abbiamo due dita abbiamo ributtato un coso, ma a puntati se ce l'abbiamo ributtato a baragana. E allora chi è obbligato, Gio? Io se non ne voglio, non ne voglio. Mi firmo il foglio, ti firmo il foglio, dammi il foglio. Mi ha regalato il foglio e me l'ha fatto firmare, e me l'ha già firmato, e me, a via, da va, è presso a buio. Ah, così è. Hai firmato il foglio come tu non volevi metterti con la maschera, così è? Sì, sì. E io non avevo bisogno di mettere quella maschera. È da improvvisata. Non sappiamo come ti ammazzarmi. E è andata male allora, chissà. È andata male. Non ha bucato niente da te, grazie. Mi ha fatto così. Per carità. Avanti, chi vuole entrare? Sì, buonasera. Allora, ha detto chi si... Chi si, ha già fatto carriera, grazie. Ha già fatto un'idea, cosa vuoi che dica? Ha l'intenso fianco di morso. Infatti, ha già fatto carriera, ma un sicuro. Per carità. Ciao Pomponia, Bruzzi Bosco. Buonasera Bruzzi Maliaci. Perché vogliono ammazzare questo graziano con la maschera d'ossigeno? E allora, no, mi voglio piazzare, stavo vendo la maschera ventilata. Mi si dà l'isaccata, ci manda il miliardo da solo. Ad arrepidenti in via Vissari a Galle e non riesci a arrepidare. Come se ne abbia tu non ci minaggi il trattato tutto e mi raggi tutta a pittorra. La gente a me così la li vedi. Che tu? La basso si è parato. E beh, avanti. Ti ascolto basso adesso, mi grazie, ma ti sei abbassato parecchio. Perché c'ho il portatile. Ah, per quello, KK. Avanti, Gio Marì. Ciao Antonio, buonasera. Avvio. È sempre più portato in mano, graziale, fece buone idee. Da manco, graziale. No, ti si tracca la mano, graziale. Non mi ha appoggiato sul tavolo, coricato. Così sento Antonello. Se lo metto dritto non lo sento Antonello. Invece appoggiato sul coso, schiaccio solo il pulsante. La giubbotto di gioco, ribufru. Hai il portatile, la giubbotto il microfonino. E l'ha attaccato al muro, così che pido solo il microfono in mano. Non mi piace il microfono, già ce l'ho, perché ti fa la voce diversa. Vabbè, cazzo, che è diverso, boh, male mi sento a me. Ed è un microfono, cazzo, minoreddo, cazzo. Già ce l'ho, ne ho due. Quello di questa e quello dell'altra radio che è conservata. Ah, non ne uso, ui. Da poi, che poi se la giustrassate, come se lo tiravo, mi si buscavo. Radio e cantuina, appresso. Ah, chi deve attaccare l'altro? Che è meglio l'altro. L'altro va più bene. Lo so, ma mi rompe le scatole. Già lo so, già l'attacco. Allora vanno, sto già risimito. O se no, dai, zitta, rubiglia e mi l'attacco, da. Aspetta che lo attacco, da. Riprendi, Antonio, se ci sei. Tucco ciù. Già sono qua, già. Dovrebbe essere anche più lucente, ma deve essere già entrando lì a Butuso. Capito? Non mi ha chiamato poco fa, mi ha chiamato. Io adesso c'è l'ascolto, attenzione, Pirucetto. Ciao, evidentemente c'è la... o ce l'ha chiuso, o non ci sente più. Andà bene. Ma prima eri scelto al traccio, ho tratteggiato tu, sai, con il PTT. No, è quando metto l'amplificazione troppo alta che fa così. Adesso sto tornato indietro. Ma sopra la faccio 3-4 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ola. Ancora lo stai facendo. Niente da fare. E adesso guarda un po' meglio va. Ciao Mari. Io non mi sento tratteggiato qua. Strano. Ciao Mari. Dimmi. È Antonello. Boh. Ciucco ciù. Forse si è sentato. Non puoi, ci sei. Stavo uscendo a tratti, stavo uscendo, evidentemente per le altre cose. E beh, come mi senti? Io ti sento bene, va bene l'apparecchio, capito? Io ti sento perfetto. E anche io già ti sento bene. Antonella, ci sei, cagiudusi. Dai, questi sono belli però. Questi sono belli, grazie. Per cui... Però... bisogna usare anche questi. E adesso ero da un mese senza usarlo, va. E devo trovare, non va giù lungo, se no l'avrei attaccato qua in cucina, capito? Ma nell'angolo dietro là, solo che no, che quando cosreggio quasi vapore me lo rovino. C'è una ventolina quello lì. Così che non ti fa niente, capito? Sì, Antonella, ci sì. Luca, la luce avvata di là. Avanza, Sacco, sacco, Oggi perché la farà il manovale, l'ha fatto il maestro. L'Antonella Pomponia, brutto bosco. Si è parato al bacone. Cadazza. Ciao Mari. Cos'è? Antonello c'è sceso nel bicchiere della Dräger. Ora è chiusa. Infatti, per carità. Stava uscendo a tratti, capito? Così che evidentemente non c'è qualche cosa che non dava e lo sta mettendo a posto. Vabbè. Luca, Montanaro. Era Luca, mi sa, quello là, la voce non mi sembrava la sua. Vuol dire che andava era affamato, aveva mangiato pasta al forno, cazzo, tanto eri piatti in bocco. Sta prendendo uno spuntino. Per carità. L'altro mi faccia russare di cosce di pollo e salsiccione. No, mi ha mandato un avvolto ed è con calzaro di dinta, deve essere un invasore con l'altro, ballito a Gubbini, travaglienti. E ingrassato parecchio a Luca Flipper, un pochino di India. Da sarifà. Bella mano te l'ha mandato un po' di zitta, te la mette il microfono. Allora, vediamo se c'è. Attento Luca Flippero. Qui. Chissà cosa è conveniente. Luca Manicomio, ci sei? E anche. Antonello Pomponio, morta sì. Qui, se caggi di un brubbio. O è copiato quanto vei. Archimede. L'inventore. Però facciamo all'Archimede se ti risponde. Attento Archimede, cosa stai combinando? Tu mi diciamo a chi non si lampa di tutto, ma non se ne abbia occupato un uovo, Giommari. Cos'è? L'altro lei non sa, ha preso una radio nuova. Ah boh, non lo so. A proposito, piacere, andateci a vederlo. No, non ci ho pensato ieri quando sono uscito da... Grazie, a tratti sei uscito, grazie. Sì, non l'avevo premuto bene. Vabbè, tanto presa non naggio. Ma va, tanto ne farei nell'aria. Chi c'ha ghita, mi sa chi ne più mi tutta la ghita. Pur domani ci fa dei tempo e usci. Dunque, non ne ho fretta. Paravati a venire in casa mi sirvi, se no già me lo compro. E fine un paio da cosa da... come si chiama? Quello che di fronte a cosa, a Europie, come si chiama? Ci fa da... così si chiama, come si chiama? No, oh, da Marius! Già mi ha detto mia figlia che ci sono anche lì, però no, io, se sono quelli che avevo visto io non mi piacciono. Ce n'è uno bello su internet. Consegna Amazon, costa 129 euro, però è bello, vedo Maduro, c'ha tutto completo, è bellissimo quello che ho visto su internet. Sì, se avessi visto quello di Carrefour sarebbe stato più bello ancora, ce ne sono due, uno più grande e uno più piccolo, però sono tutti e due belli. Ebbene, è roba robusta, si vede che è roba robusta, capito? Quelli si va a vedere, capito? E inutile sulla foto certe volte ti inganna, capito? Invece quando li vedi in persona, ti rendi conto se ti piace, se va bene, se lo fa bene, capito? Mentre in foto sembra bello, un grosso, invece magari tutto il laberino malandata. Aspetta, mi sei maciato Mauretta. Ebbene, Giomari, nessuno è entrato. Ehi, servito sei. Servito sei, ehi, Antonello, ebbene, caduto ci sei. Ma poi lo si deve sposare, non sai, che si deve sposare. Sì, c'ha tutti invitati, a pranzo. Ella, ci ha invitato e ci ha detto di pagarsi il conto. Non ci invita e noi paghiamo. No, no, già paga tutto lui, adesso è diventato imprenditore. C'ha la carta e paga tutto lui. No, lui è imprenditore. Lui la prende! No, no, già paga tutto lui! Io prima di mangiare mi informo, ma isso! Allora, addio il celibato, andiamo a neve! Se funziona ragazza, chi va, mi la posso imprestare, così mi la consumiamo un poco! Ah, addio il celibato, andiamo a neve! Capito, vediamo lì, le raccoglio, come si chiama? Al pime, Ciao Maria, ci sei? E io sono sempre qua. Ah, che ti hanno chiamato da Zura? Boh, non ha risposto. No, la Torello non si sente più, la sei, gli è copiata la radio. Che ci vedi? Sei ricoppiata chissà radio. A chi sta nel pelo che ti tocca, vai a cozzare la guazza. Oh, sta bagnando il biscotto. Per carità, capita, 40.000 radio vanno, una lo tira e l'altra non muglia. Boh, vediamo se c'è manicomio. Attento Luca manicomio. Volate cacciavitti. Usate cacciavitti. Attento Luca Frippero, cubicando sai. Parete di pollo, ci sei. Archimede chiamalo, se no non ti risponde. Chi ti vale cacciavitti? Chi dà per mangiare a lette di pollo? Tore non ne va vedemo. Devi lasciare la lenza piccata a Tore. Vediamo se c'è invece. Attento Tore. Dai, dalla 6 giri Urigale in bicicletta. Cattedo, a Taranzi Urigale ha preso. Marino, non ne va vedemo. Dici che non si cocca la sera. Mi sa che come ti arrivi a casa sua, mangia se si forra l'uretto. Marino, sotto l'albero con la zappa in mano. Oh, non si muove, la zappa se la tratta Edu, Ed è sempre ferma, la zappa, Edu, la butta in mano. E a me mi sa che hai infurrato dritto all'uretto, altro che zappa, Per carità. Cazzo, invece fa la camminata la zappa, la lascia ferma, la sua non andano. Cazzo, se non muovi un robot non anda la zappa, la sua no. Hai movimento. Pensa che era il parenne Lugani a zappa, che ci sono i milioni che fa. Oia, milioni. Capirai, cazzo di me. Chi si due cani che va? Sono due leoni, li sarà imparendo a zappa. Ehi, attento ciucco ciucco. Tutto è bruciato. Oh, è vero. Oddio no, ciucco ciucco. Cazzo, io non li gioco, boh. Quando vai un tecnico come lui non c'ha a disposizione un'altra radio subito, veloce, quando gli si imballa una, boh. Sta facendo l'amore quello, Hai te, grazie, hai te. Cos'è? Non ho capito. Quello lì sta facendo l'amore. Capito? Prima di sposarsi. A dire che il batto fa con le negre. E già la dici, l'ha fatto l'amore. Oramai mi sa che non ne funziona più. Tore non c'è, Luca Manicomio si sta lavando, chi dà tre manieri, coscette di pollo, a letto di pollo. Dai, prova niente, cazzo, si chiese affamata, va, chiaro, là se ne mangia, da voi a passadere, non arrivare, mi fa pensare, non dici, andate così, paese, là. Figlia, che ora sono, risetti? Manco zinco, va bene, tutto va bene, ia. Buh, domani passi come te oggi, di fea, buh. Cos'è domani? Domani te fa lo stesso come oggi, acqua. Cazzo, lascia fa, già fatti bene, leva. Leva, fatti bene, a chi da voi non ne fatti più. Ma infatti, siete mari che ne ha fatto tutta la chita? Già ne ha fatto acqua per quest'anno già. Beh, no, che per la piazza ogni anno va tu. La piazza è le aiole, per una aiola pare una piscina. Pieno d'eva, non ce la fa a subirsi l'eva, lo darreno. Se poco la terra non fa scolo, è chiaro che diventa una piscina. Ok, un attimino, grazie. Sì, vai, vai, già so chi no. Attento, squalo senza pinne. chi è? Signor Bacchisio, mi sembra. Sto cercando lo squalo senza pinne. Buonasera, signor Maria. Buonasera, signor Bacchisio. E dice anch'io. Cazzo, anche il pistole va in vista parecchio. Lo sai, signor Maria? Ehi, infatti hai detto anche il pistole per trattista parecchio. Guardi, chi? Ehi, malato vuol dire che mi pare sia la batteria andente. Ma c'è stata campagna? No, ancora sono cassato. Un'oretta fa. Ah, e io verso risico sono vado piano piano e me marginarmi la macchina. Ho cazzato gli occhi e ha già acceso e è entrato Graziano, era buon pugno ed è parito a chi era sceso a tratti. Dico se cosa Graziano. Graziano ci si. Graziano è andato alle Marche. No, se l'ha sentato anche lui. Se l'ha sentato. Anche la gente me la sentendo un attimino. E invece ci ha sentato anche lui. Tore, non si è sentito ancora? Tore c'era a Lumache col cane. È andato a farsi la bacera. Poi già rientra. Eh sì, e beh, cosa hai combinato di campagna? Niente. Nulla, zero riporto zero. Nulla da fare, proprio zero riporto zero. Non ci ho fatto accompagnare a Ricoccio sia a Ricorracci. Ma lo manco un fuoco a Pinnai, sì? Che cosa? Fuoco a Peggia, senz'altro c'è il tempo per freddo. Ah, per la stufa. Per la stufa elettrica. Ah. Legno, la fine a pulire un fuoco, ma hanno braciere o no? No, non venaggio con i braciere. Non andava a fare i braciere da vento. A te della stufa, un fuoco vedo e si state bene. Ebbene, lo griglia, è andato per un gaggio, c'è dove sì, è l'unica era Issa, anche la lì è tutta lì proprio fea, proprio la giornata da poveri gatta, e c'è lui davanti alla Zibinea, e ogni tanto la danza e tiene da darazzi, anche da sera è ubriaco frate uno. Poi te aveva la seminea, aveva un pezzo di giustizia, Rossilla e Magnà, e allora è diverso in campagna. È capitato Bruchissi, che specialmente in compagnia, che una tira all'altra, e così che, appetito vivo, ma va appetito, no perché appetito, ma chi no, come te prima. Gli anni passano, i bimbi crescono. Non sai così, ormai le cose sono ciambende. Stiamo andando alla nostra sponda, capito? Non è più l'armonia della bocca. Prima mangiava e faceva, ora non più. Ah, che si mai, gatta. Ogni cosa bene passa, purtroppo è così, però. Poco a poco, lo fermo lo mattessi, tanti luci, là. Alla fine. Ripiango che sei cadere da giovane, loca. Non metti in campagna, se deve in campagna. E a segnare un fuoco, babbo. Un pezzo di raso, un pari mi fatto in casa. Oh, yeah. Venimi in decoro. Ehi, Aro Grivi. Si ritira a buona. In campagna e tutto quanto. E tutto altra cosa, è tutta un'altra cosa. Oh, a me mi sarebbe piaciuto abitare in campagna, però non lontano, non lontano però, avendo tutto la comunità sarebbe stato bello, però non si può avere tutto nella vita. Lontano come in campagna non può venire più, arrivato a una certa età come se dai in mezzo alla gente, perché c'è necessità di qualcosa, ci si è portato di mano. E dopo siete Graziano, grazie! Graziano è caggiuto. E Marino, si è sentito Marino? Marino si è addormentato. Marino! Ehi, dimmi, ciao Bacchisio, ben sentito, buonasera! E allora Zappato aiuti. Ciao Graziano, buonasera, ben sentito anche a te. Ehi, a voi ho zappato, ho tutto zappato. Perché oggi si poteva zappare, la terra era molle, ma quando è dura non si può zappare, adesso è molle molle, va bene, fai meno fatica. Ehi, già un gioco, ma si attacca la zappa che andiamo in fusa. Ehi, ehi, come mi coppi oggi, meglio? Bene, bene, grazie, bene, ti ascolto, forse l'antenna esterna hai messo. Ehi, ehi, e anche la radiolina, quella nuova. Ah, l'antenna radiolina, quella vera? La scatolina piccolina, quattro palmo della mano, Ehi, dai cinesi l'hai presa. Oh, da un negozio in continente. Tu ne avevo preso una volta. Perché c'erano i cinesi, ce l'hanno. E alta, se hanno un 10 centimetri, non di più. Per la base calamitata. Ma questa c'hai quattro frequenze, c'hai il display quadrato, tutto colorato, blu, i numeri bianchi, quando premi e parli diventa rosso. C'ha tutto. No, è quello dei cinesi, no, ma chi? Non è quello dei cinesi, è tutto un altro discorso. Cambia tutto da quello dei cinesi, diglielo grazie. E allora, ma cambia caro cinese, chi c'è ben davvero, è proprio pura originale, presa in negozio elettronico. Sì, anche quello dei cinesi sono originali, capito? Sempre Made in Japan. Ci sono due tipi di anno, una che costa di più e una che costa di meno. Questa adesso non mi ricordo quanto l'avevo pagata. Boh, chiamaria, te lo ricordi. 125. Sì, 125. Ah, e ne avevo preso due la volta. Però è completa, c'ha un casino di frequenze, c'ha un sacco di cose. C'ha i comandi a portata di mano nel microfono, c'ha tutto. Capito, capito. E canali quanti li hai? Pochi o sentito? Un bel di canali, allora non me la metto, se no se non ricorda Gian Maria. Io la lascio sempre postata qua, che non so come manco nei buoni un dito, con tutti i chitazzi che vi so. Per farla funzionare devo prendere il depliare e leggere, capito? Ah, capito, capito, se no si dà in casino e poi non si capisce niente. Ah, già compreso, avanti Gian Maria. Più o meno come il canale che c'hai tu, Bacchi. Solo che tu è diverso, capito? Da un all'altro. Poi i canali ce ne sono pari, mi sembra che ce ne siano 200. Anche da te mi sembra che siano 200. Capito? Ma e chi li tratta i 200 canali? Noi usiamo solo questo canile e basta. Sì, noi siamo sempre qua. No, la sintonia continua, ci sono comunque dei canali. Giri e ti sposti sempre. E va bene già. Anda per me da grazia. Ti ascoltiamo bene stavolta. Hai migliorato. Ehi, sto comandando là. Ma veramente non ne voglio mettere qua in cucina perché magari come cucini col vapore e tutto mi si arruineggia. Capito? E così è quello della 27, è una super radio, c'ha tutto anche quella. C'ha un display che non finì più. Oh, c'ha un sacco di canali, c'ha tutto, non ne manca nulla. La 27 è questa lo stesso. L'hai presa la stessa ditta, grazie. Sono della stessa ditta, capito? Sia quello piccolo e quello grande. Già lo so che era lo stesso negozio domatte. E anche l'antenna avevo preso lì per questo. E infatti a quello gli avevo chiesto se ci avevano anche una mantova nuova. Mi aveva detto che al momento non ne aveva, già me la procurava. Mi aveva detto così, quando me la procurava già mi faceva uno squillo. Ma le mantove non si trovano più, non le stanno più costruendo, grazie. non le stanno costruendo più, non ce n'è più, qualcuno è residuo, ma in costruzione non ce n'è più. Lo so, me l'aveva detto, però lui guardava tramite i suoi colleghi, no? Se c'era da qualcheduno che magari ce l'aveva in magazzino, capito? E quando la buscava me lo faceva sapere, mi faceva uno squillo. È un bel affidabile questo. E si vede che si interessa a lavorare, capito? E c'ha tutto, ti la fai pagare una cosa, però ti fa anche gli sconti. A me per quelle radio due ne ho preso lo stesso. Della 27 in omaggio mi ha dato anche i cavetti, l'adattatore per i microfoni. Così era Gianmarco. Eia, perché c'ha l'attacco come quell'apparecchietto che stai usando tu, Bacchi. L'attacco, no, come sul tortone, l'attacco tondo, sì, come quello del telefono c'ha, capito? E allora per mettere un altro microfono danno l'adattatore e con lo spinotto tondo in finale, capito? Sì, con l'adattatore. Sì, sono a Violetta come il telefono. Sono a Violetta come il telefono. Ti hanno fatto una grande porcata con fare quel lavoro del genere, invece fa la pelle, no, hanno fatto quello lì. Sì, quelli me li ha dati in omaggio perché ne ho preso due, capito, di quella radio. E avevo speso più di 500 euro, così era Gianmarco. Chi mi aveva detto, ma già lo so quanto mi deve dare quando gli arrivo, e non si preoccupi, già lo so quanto devo pagare. Ha succiato io. Veramente Gianmarco. E a chi? Cavetto mi vuole dare solo uno. E tu l'hai detto. Se non mi dai tutti e due non prendo niente. Allora appunto un altro. Sì, pure a valore un più. Ti dico io, ma quelli li pago. E mi appunto ti sto comprando due radio, più quelle piccole. Non ho capito. E allora ti tieni tutto e mi la metti un altro lungo. Adesso me la mandate. A chi la dice se la mi manda il cavetto, prima controllo, poi pago, perché se non c'è il cavetto non ti mando tutto indietro. Adesso me la mandate, Bacchi. Sì, ma sì, anche se non piglia la vendita, noi la macchina, ti piglia la vendita, tu ti decidi la tua la borsa, non la via nessuno. Dunque dice, pigliamo il pollo all'amo. Sì, ma poi gli ho detto, guarda che mi occorre altra cosa in seguito, dunque non è che mi sto fermando con queste due cose, no. Quando mi interessa cosa, se lei c'ha questo, questo, questo, questo e questo, le prendo da lì, non è che già mi sto trovando bene con lì, capito? Allora, avessi la posto pure l'altro, prima mi lo dici, mi li dai e da poi mi ne vedo solo uno, no, e non che macchina finendo. Ci fai due radio, mi devi dare due capi, no? No, con un capo posso due radio, no? Mi dai uno e uno all'altro, come abbiamo parlato, se no ti dai ridotto, hai fatto bene, a diviro. E se no, amico, si è subito impreghettato e ti ha mandato. La ditta le manda in dotazione quei pezzi di cavetti, capito? Ma invece la ditta che le riceve e se li fa pagare costa 13 euro costa quel pezzo di cavetto, capito? Costa un macchino, però si può incasciare di là, allora ecco se tu va a punirli in mezzo alla cifra dell'apparecchio. E allora già me l'ha mandato, e se no se ne riamando in nessun paese. Prima mi dice una cosa da voi, torno in alito, no? Sì, io c'è papà Romacco e andava da un'azienda, si vendia due voci. Infatti se sono in dotazione, li ricavano e dopo li vendono a pace. A chi ne ha accanto la carrovita a me, la finirà, capito? Non ce n'era di quella dottore, se non vuoi dovevi comprare. E infatti la cassa è cancellato, la cassa è cancellato, non sono macchino. Allora gli appena giudizio pure. E non si vuole le cancellate, allora vi perdete anche gli altri clienti, vi perdete, se lo mettete in mezzo come ve lo danno. Non dico io. Noi mi dai uno e l'altro di raggio di bagano, non andate. E allora adesso me le ha mandati, se no non me la poteva già venire le altre negozi, ma? E poi è roba giapponese, roba fatta in Giappone, e li mandano in Italia, perché in Italia ci sono quelli che fanno i cose grossisti. Chi sia che ne regalano i bisti da Trento e se ne vende a pace? Ma se l'accordo era così, ma cosa mi devi dire? Me ne dai solo uno? No, sono due radio e me ne dai due. E cos'è? E l'altro di radio di Bagà? No, no, no, non va bene. E infatti ha detto, sì, va bene, c'ha ragione lì, che glieli manda, lo meglio che puoi fare. E intanto io controllo quando arrivi, se ne confetti si ritorna in Darito. È chiaro, grazie. E adesso questa qui, questa che c'è qui, aspetta, mi pongo gli occhiali. Quell'altra non mi ricordo che marca è. Questa è QVT Kitty 8009. 8009, Gloria. E sono 10 watt. No, non me ne intendo, già mai così. Cos'è, un po' disattento, cos'è, grazie? Ha detto che marca è questa piccolina e qua, e quanti watt c'ha? 10 watt. Mi pare di sì. Eia. Eia. Sono belline come il radio, poi sono complete, c'è anche la ventolina dietro, come scato un po' si aziona la sola, come la presa si blocca. È chiaro, perché scaldano, nel mio la ventolina non c'è, ne hanno tolta, c'è i quattro buchi per mettere la ventolina, però la ventolina ce l'hanno tenuta in tasca. Questa è tutta completa, no scaldano, ti sto dicendo come scalda appena, mi la zocca, ghiacciata, si aziona la ventolina che c'è attaccata, la sola, e poi si spende la sola, non posso nulla io. Quando la fredda si spende da sola, vedi, era così quello che c'avevamo prima, e poi si è bruciato, è arrivato difettoso dall'inizio, e poi si è bruciato. Sì, questa è una bomba, oh, è tranquillo, e la bimba è sgrudrato, ma uso più il portatile che questo lo uso ogni tanto così, a chi mi dà di fastidio mettere il filo, pigliare l'ugoso, l'alimentatore, capito? Se non c'è un posto fisso dove metterlo. Lui è piazzato, dopo io questo ne devo smontare tutto, piegare il filo, pigiarmi l'alimentatore, munirsi da una base, la radio munirsi da un'altra base. E mi rompo un po' le scatole, capito? Se non c'è il posto dove metterlo. E purtroppo la casa della vita non è manna, il spazio non è uno. Sì, ma adesso già arriva l'estate, grazie, in veranda la puoi mettermi. Metti un tavolino in veranda e sei a posto. Sì, l'estate già la metto in veranda, questa anche la 27 gli lascio lì, già lo so quello. Ma è vero, non faccio a stare in veranda, chi muore che anche la due di freddo, in estate già lo faccio sempre, ma in estate si può fare, ma inverno no. No, in inverno nulla, in estate solo. In estate va bene, no, esci bene in questa radio, esci proprio prepotente, squillante, non è così Gianmarì? Esatto, ma grazie a Dio ce l'hai il posto, solo che magari forse la 50 non lo può vedere davanti, se no ce l'ha il posto, una mensolina sopra, più su, attaccata al muro, e che intanto è piccolino, una mensolina attaccata al muro, l'ha messo attaccato al muro, c'è l'alimentatore e l'apparecchietto, boh, e non piglia l'office, anzi è bellino, è rimesso così, grazie, come avevo deciso una volta, ma evidentemente Rossi non vuole. Prova in cucina, no, in cucina non ne voglio pulire io, che piglia tutti i vapori, no, mi sta rovineggia. In veranda sì, però in cucina no. Però in veranda non posso trattare solo in il tiro, è inverno, no, è inverno, è freddo. Anche quello è vero. Ma non li parli altro, cosa lo fa? Mi metto un pezzo di straccio sopra e non succede niente. Non entra l'umidità, capito? Assolutamente. Però, cazzo, ce l'ho io in cucina e per cui non li fa niente. Così che, ma che mi ripassi niente, no? Adesso devo vedere se me lo metto nel ripostiglio. Perché ci ho spostato quel mobile che mi avevo preso con paletta, l'ho messo dentro il ripostiglio. E il frigorifero me l'ho messo fuori nel terrazzo a fianco alla lavatrice, chi ci va a ragioni. E mi hanno come un grattacielo, quel frigorifero, adesso viene l'estate, e allora abbiamo deciso di metterlo in veranda al frigo, capito? Così non è caldo, che mi avviare un ripostiglio, ma no, anche io il caldo un mese. Se adesso giocavi la griglia ti bruciava la mano, perché c'è poca aria. Infatti adesso non so se mettere una mensolina lì a fianco e me li metto lì, che già sono più riparati là, di stare dentro in cucina. Vedo un po' tu là. Lo metti bene, lo metti. Uno lo mette dopo gli viene bene, noi magari diciamo che si può mettere, magari a te non ti piace non lo metti, è giusto che sia così, no? O no, ma è chiaro, ma io l'avrei messo in cucina, una mensolina sopra il radiatore, l'avrei messo lì, alimentatore e baracchino, coperto con un asciugamano, una cosa del genere, dove sta sempre cucinando, no? No, dopo c'è il radiatore non fa che c'ho il tavolo con la ciglia, non ti rammenti. E dunque quando ti posi si scinnanta i libri. No, mia, adesso stavo pensando di metterlo nel ripostiglio, capito? Sulla destra, no, come nello sgabuzzino, nel ripostiglio. Già ce l'ho lì il posto. Cioè anche la mensola, me la salgo la garage e la metto lì, e li posso mettere lì, poi c'ho anche la presa lì, vicino, e poi su buri chivi, e già non ne danno fastidio. E anche il filo, ce lo porto direttamente l'altro lungo, che lo devo cambiare, direttamente dentro lo stanzino, capito? Va bene. Chi è che sta pagando? Avanti. Ma chi riprendi tu che rientro subito? Sì, è Gianmarì. Non c'era uno che ha detto qualcosa, non si è sentito. Boh. Vediamo se si affaccia. Avanti, che voleva entrare. Luca, tu sì. Se vuoi entrare, entra. La porta e la finestra è aperta. Ma entra dalla finestra, però non dalla porta, Entra dalla mia destra e ci sono bacconi, cosa vuoi dire? Entra dalla bacconi e se ci dà la gialla. Si può entrare alle male di me, altre che a sinistra. Chissà. È così, grazie. Bisogna rimodernare allora, dai. Nello sgabuzzino non ti disturba nessuno. Non disturbia nessuno, stai bene anche lì dentro. In estate si sta bene, in inverno c'è caldo. Qua in cucina c'ho l'avvento, quel lampadario, no? L'avevo comprato da Conforama, fa l'avvento, e ne fate già l'accendo. Tiro un gannaito e gira l'avvento, e fa tre velocità, fa. Quello che c'è la lampada sotto, vai. Si fa il vento e il lampadario. Sì. Ed è un bel comodo, solo che la lampadina, quella che c'era in dotazione, fagli a bocca lui, allora io ne ho divulgato la plafoniera, l'ho conservata e ho messo una lampadina un pochettino più grande, però la plafoniera non ci sta, ma non me ne ha fatti nulla. E non si mette niente con questa lampadina che vede. E ha chiesto in economia, lampadina in economia sono visti. E poi l'ho cercata più potente per poter piazzarla, però sono più grandi e non ci sta la plafoniera di vetro, capì? E dice, ma non me ne ha fatti un decimo con la lampadina così, l'aveva abbigliata una di queste rotonde e la rimbocci questa, poi una di ne farà due, la doccia rotonda è rimasta la lampadina, e non solo, ti dico tu, è tutta girata, no? Come una serpentina. E all'inizio giù si è fatto pure un buco e funziona il matto essi. Anzi, prima lampeggiava, ora non lampeggia più e funziona il matto essi. Già ce l'ho di ricambio. Ha detto, beh, pensa che funziona la lama. Ah beh, chiaro, no. L'assista dura un po' di più. Magari sei andato zuppa. No, è così. E se non fai plafonia non le fate nulla, no? Anche se per la lampadina. Basta poi una lampadina di che si coso, a consumo energetico ridotto. Capito? Oppure quelle a coso. Come si chiama? A LED, una lampadina a LED. Di quelle a gas, cosa ne so come te? Luce bianca, già è a basso consumo questo. Però è troppo grande, capito? Tu con la plafoniera non vissi, non ho trovato lampadina, cioè attacco grande sì, però come potenza. Sono più grande il tipo della lampadina e non ci sta la plafoniera, capito? E dunque allora giù la caduisa, già ce ne ho lampadine già. A chi è andato da Conforama così, e le vedo che ce ne sono in offerta, le compro sempre, anche due settimane fa che sono andato, c'erano e me ne ho preso due così. Io le prendo spesso le lampadine, tanto si brucia a destra, si brucia a sinistra, è meglio sempre averle di scorta. Ma sì, se no rimane al buio, E devi trovare di quelli a funghetto, che sono basse, capito? Quelli a fungo. È difficile trovarle, non sono tutti che ce le hanno. Una volta le avevano i cinesi, che sai, quelli che c'erano d'accordo, da dove era Gisalfa prima, vicino al supermercato, lì ce l'avevano. Ma bisogna vedere la potenza della lampadina, le lampadine già ci sono anche da Conforama, però come potenza sono basse, hai capito, come luminosità di luce, non ne fa molta, capito, sono basse come volume di luce, da. E se no già ci sono la fughetta, e ho chiesto io se c'era un pochettino più potente. Capito, per dirti, chi sei da 60 io la voglio da 100, compreso come te prima, di potenza. E invece non ce ne, sono tutte basse, più di chi ci non fate. Quella che ho, l'ho presa, l'ho messa, l'ho accesa, ma è molta, come luce, così la voglio luci. No, se è piccola diventa gigolo. Diventa già il guru se sei minore, minimo 100, 7500. E allora a me mi dà fastidio quando c'ho lampadine che non sono luminose, o i mini balani di bibilitri. È che non sei abituato. Allora aggiungo a darle la della pietra, lume di candela. Ciao Dore, te la mi chiamendi tutta la sera, vista la ora mi duri. Gio Maria infatti ha pigliato la billola, chi la mal di ora. Chiamendi dentro renna ciamà. E chi se in bicicletta, e chi se con un cane, e chi se ci da cozzoline. No, ero una mossa. Una morsa? Sì, ero se niente un dito. Vero, signor Bacchi, buonasera anche a lì. Buonasera, Gio Mari. Ciao, buonasera. La gita giù in Sattora, la bicicletta con il cane fatto ad Arezzo, a Graziano, la gita. Ma non si credia, Oh, mi va via, rodito di Graziano, 30 la mossa. Graziano, così è. Piatto dello Tupone, a lui, è esploso, un tratto, Che non è a morsa. Sì, alle mallerugna che va. Ah. Come ti intendo da 3D? Ma mi senti più meglio o più male? Normale, come tutti i giorni, normale. So chi, la 3D ti invia chi? Che ne sia in mezzo al QRM. a chi, non lo so, con un portatile se ti pulsavi o ti pulsavi, boh. Ma c'è stasera sei pulito. Perché mi sono lavato con l'acqua come l'acqua a Calimero e anche per lana, vero Bacchi? Allora, dottore, non ci crede. Io ho fatto come Calimero, si è portato dentro la vaccinella e si è lavato. Era nero nero, adesso è bianco. Otto. Ehi, vai, sto chiedendo che c'è gente, vai. Ci siamo domani, alle prossime. Ciao Bacchisio, ciao Graziano e ciao Attento. Riprendo per girare e chiudo. Ok, ciao. Ciao Mario, ci sentiamo domani se tutto va bene. Ok, riprendo, grazie. Maria, buonasera, buon tutto. Saluta al Correa, a domani se coincide. Vai Bacchisi. Yeah, salutiamo Gian Maria, ciao Gian Maria, buona serata, saluto in casa, a domani, a risentirci domani se tutto va bene, grazie ancora della chiacchierata, ebbene riprendi il tole. Sì, signor Bacchi, stasera è pimpante, come te sempre, però la sera intendia a mezza guerremme, ma stasera ti hanno pulito. Ah, che ha migliorato, Graziano, si ha posto un foglio di giornale, sono stati bene stasera. Deve essere la ciamba d'apparato, si intende. Ma sono qua, c'è 1,74, Tore. Mi ne vuoi con un cappello e c'è 1,73. Ehi, abbassi di puro. Ehi, mi ne vuoi con le volte e c'è 1,71. Ehi, vabbè, non interessa chi sono. L'importante è andare. Allora, pure la ricusta gli accamminiamo domani stessi. Luca Malicomio non si è sentito, Luca Flippe deve essere mangiare goccette di pollo e alette di bollo. Beh. Sarà Rossendi, sarà Mimmino Marino e su Raghena va a segnare dall'Afro Bianco e da vedi se non trommi la sera. Sì, ma Marino che mangia si è alzato alle 3 di Manzano e ha trovato tutta la vita, dunque si è ripresenta qua. Cosa, quando lavoravo io in comune non mi cuccavo mai la sera, eppure me ne pisavo un ghizzo romanzano. All'autoparco ero sempre il primo, sempre arriviato il primo. Quando arrivi chi si mi ha fatto mezza zorrada. Sono il puro quando lavoravo, se ne pisava il ghizzo, all'ultimo. Ore. Grazie, già sono qua. E beh, parla tu, già lo so che sei qua. Dici qualche cosa a me a Bacchisio, chiedili qualcosa a Bacchisio, cosa ha fatto, cosa ha piantato, Cos'è Grazia? Gliel'ho detto io, Bacchi, riprendi. Cosa, Grazia, fuso è Tore, fuso è, non entra in ragione, appartiene alla televisione, non è così da noi, no, capito hai? Allora Graziano ti ha chiesto di chiedermi cosa ho piantato e invece tu non hai detto nulla. E tanto se te lo domanda è tutto, infuso, va, è tutto allagato, mi dici. È tutto allagato, sì, non si può manco accogliere. Va, ci fate la mano, alla che dai che ti accogliamo la fava. E andare. Andiamo dove andiamo, vuol dire? Buona sera. Io penso sia buona. Bisogna domandare il Curraccia, che il Curraccia è giusto che l'ha già assaggiata. Bisogna domandare se era buona. Vabbè, già ti chiamo alla prossima guida, se anda, se è tutto buono. Via, sei buono. Sei buono. Tu sei di Grazia, perché non è buona. Scusa, ma non lo tacco sulla carabina, cosa mi dai? Ma il numero mi dai? Ti apposi, ti mimetizzi, da cui, come ti ne vedi di dirgli? Caso ne brilli una, la brilari, poi ne due giorni, così ha della picchia, non pare che non vi venne di più. Sì, alcuni non a te, si già fatto il suo travaglio l'anno passato, voglio grazia. Vieni alla pigni, vieni. Ha trovato la pignica, dice, come c'è in giro la mucca? Ebbene, non mi devo appostare a tirarli, ma c'è a tirarli. E non pare che non vi vieni. Allora, giusto, quando non fai nulla in mano, a 2 metri non si muovono. Vai, non hai mai in mano, non prende una di via sale, nulla, non passa una. Viro. Quindi arriva la benzina, si è sfondati, a mio amico, mi fa in cielo, sto parlando di rubia sala per cagare in magna. Ma chi tu devi fare a vinta la mattina, perché ci vola, entri l'MLM senza farti vedere, e lì Dio, se no ti rubano vicino al cancello a parte di Trento. E t'ammacci, fa la vinta la mattina, buona la macchina vola. E t'ammazzi, come ti va la niridì? Sono lonfi, grazie, sono lonfi, vada su, momenti. Io penso piglierò un fianco, no. Ma vada, sono bene, non li piglio. Un paio di mesi non lo so, hai parato una. Ah, io in campagna, va via la linea, già canto. E non lo so se c'è, avevo messo anche la rete sopra, mi. Pa, fanno entrare 30 rubollati, a chi ci mangiava di tutto. E un bel po' che anche tu non gliela bizzicavo, e ben di maduri, mi. A chi allora tintavano di entrare un cancelletto di legno, capito? Quando arrivi al cancelletto, la di davi. Sì, ma sono lonfi, lonfi, io sono giardini, sono giardini, e poco sono manni. Se tu devi pensare, vedo due occhisciare faccio in campagna. Sono minoretti, tu gli cadi la buccia con i pantaloni. Se vuoi che pongo a volo, le crocchette fuori, allo sole che mi fa mangiare. Arrivi i curracci, chi ti si innandali, e i curracci mangiali. Riprendi tu, che guardo la stufa che ce l'ho accesa. Io, gli accatta che andiamo per andiamo, io so che sono intelligenti, sono. Io sono intelligente, ma Rasucci. Super intelligente, super, ma sono, hanno una furbizia enorme. Nulla la fa. L'anno passato ripuniva la fava, le cose, un piatto, rimbocciava la fava per un piatto, ripuniva rami, ami, microami, proprio minuti, con la lenza. Ma lo sai che non gli mangiava né che si fava per la lama, non lo toccava, si mangiava l'acqua. Carta, che lo sabbiani, ma ne luce e gatte che pare ne cose, bari, i canocchiali. No, lo si vedeva come ti era fatto il travaglio, a fine, aveva un piatto in plastica, no, l'aveva accampato sotto, e lì vedi, entravano tutti da sotto. Ed era in mezzo alla pavavona. E la vola si mangiava, chi si cullava me la lasciava, e invece te la mangi tu. Sì, sono intelligente, insomma, Rasucci. E poi dici che non sono intelligente, che sei bizzone. Ti distruggini tutto, ti distruggini. Tutto, non lasciai nulla. Ma va, fa via lo bisillo, se ne hai mangiato, hai buttato il retinante. Hai fatto un po' di travaglio, però non rimanga più dal bisillo. Signor Bacchi, un cannone vivo ai paralli che hanno già in volo. E bisogna serrare tutta la campagna a rete. Bisogna fare i muri alti e pulire a rete. Infatti. Ma ti bucano la rete, ti bucano. Adesso poco rompi. Allora, non rimani. Oggi tu non hai toccato ancora, fava. A chi è tenda là, non mi piace. Lo metto lì, nulla, la sera fallo dove ho mangiato, in un'altra rete viene la fava imbucciata, io ho mangiata, la mia assaggiata. Ma chi c'ho 5 minuti che devo fare l'insulina a chi sarà a fianco a me, dopo rientro là. Ma fargli l'insulina però non farla si trovare, grazie, mi raccomando. Ma no, già faccio veloce. Io vai, siamo qua. Capito, Aito? Sì, ma la sorte, sono un bel intelligente, giochi bizzoni, però distruggini tutto, distruggini io. Distruggono, a sai a chi accudini in campagna, a chi è, lo vicino di mio, Parigani, e li poi io pare uscire piazzali, la papanini e tutto. Cosa fate? Con la ci vede che mangiare sono sempre vivi. sempre a Porta Laiate e un filo, si intende che mangia. Vedi, così non lo dovrebbe fare, buttare il pane così. A chi ci arrivini sempre, arrivini. Arrivini a chi vuoi mangia. Ormai sono abituati, arrivini. Arrivini manni, minori, vecchi, giovani, tutti i vivi. Perché c'è quello di vicino che butta tutto da mangiare. Ecco perché, se no non verranno accuditi. Ah, magari ho qui c'è una di manco, che ha dovuto romanzare un faro. Però più della Russia è pieno, pieno, a chi Gianni cosa ha fatto? Ha portato via Rubani, allora a Reggami, quando si allontana Reggami da Rubani, deve fare la pulizia. Boh. E magari Reggami sono drummenti e dei magnenti. Non ridimmi. Rugami, dimmi la corraccia. Oh, che attende, muove? Sì, la corraccia si pone in magna, e tu sa via, a chi appartiene di me, la baggiare, dice se ne cucciarete, come ti vede la corraccia, e se ne potrà andare. Certo, vabbè, che ti mi la corraccia, ripeti come ti ripeti, vrum. Cerca di bigliare, ma non verdici. A me quando sono mani che si cade via la fianca da me. E per favore dimmi. Aspetta che andiamo e andiamo. Il cane è pauroso, capo. Ha mosso la mia magnata. Purtroppo anche loro hanno diritto di mangiare qualcosa. Sì, a galera magnata. A galera si andrà a mangiare. Distruggono tutto. Vedete me, mi raccoglio qui sull'avanti, no, se, la mia buona si mangia, la mia bella. Non devi pensare, se vedete, vedi, è una fea, chi ti fea della razza, la vedi se la mangia lì. Signore Gioco Bacchi, sono proprio di distruggini tutto, distruggini. No, ma lo so sì. E a mano non vedete se a fanno di vura qualcuna. Di qualcuna, perché sono a centinaia. Quindi avevo una mitragliatrice avevo. E dopo io vado, quando comincia la viga, è più ancora. Ma allora è più tenera. Iuia, andiamo. E la figa bisogna fare, se vuoi mangiare figa devo arrivare tenendo, se no non li mangi. Bisogna fare così, tapparla. Purtroppo non c'è niente da fare con queste qua. Che cosa è punirli un coso, un autoparlante con un microfono a farla allontanare? Se te ne ha radio, lo fa avvicinare, dice così. Se per musica, lo fa avvicinare. E ma allora ci fatto un sistema con la bottiglia di plastica, no? Bucata, la metti su un ferro e gira, fate le alette, una specie di ventola, si fa il vento, e fate brutto, e aggiungo i dimmini. Di fa brutto non vi dorra niente, si allontanano perché gli dà fastidio. Infatti, gli dà fastidio. E questo è un prefetto che è venuto dal Piemonte, capito? Mi hai detto in cosa, in radio, l'ho sentito l'altro giorno, sono 15 giorni fa. E ho provato a farla, la prima non mi è funzionata, dopo la seconda l'ho modificata, come mi ha spiegato, e funzionano. E sperate, che lo ferro si aggancia la plastica, ma e non si avvicina lì. Quando glielo fai sempre, no, non ci tornano. Se ne stanno alla larga, se ne stanno. Sì, per i primi giorni. L'anno scorso ci ho fatto un po' fatto con i pantaloni miei, la giacca, il cappello. E gli ho messo anche il coso, l'elmetto di lavoro che c'avevo, il casco. Sai cosa facevano? Nel primo periodo andava una. Poi si hanno preso l'abitudine che lo vedevano sempre. Alla fine gli facevano la cacca in testa. Addio, ci avessi si muovi. Certo, hai provato, hai già entrato. sono qua, a chi gli devi portare il lupo? Non lo dovevi, la cassa è prevista il lupo. È in brutta maniera, rendendo il lupo. Che se tu c'hai sempre fermo, se come ti mai io c'ho sempre fermo i nonchi. Ehi, prendo, te lo lasciate 3 giorni in un punto, altri 3 giorni lo spostate dall'altra parte, capito? Ehi, così bisogna fare, grazie a me, spostarlo. Ma quest'anno non l'ho fatto. Nulla, quest'anno ci ho messo le bottiglie che girano, e fatto di la mitragliatrice. E ho visto dove sono le bottiglie non ci vanno, dove non c'è le bottiglie ci vanno a mangiare. E anche le bottiglie vanno bene, o se no lo questa che scoppia, adesso non lo so, mi sembra che lo vengono al consorzio agrario. Ah, il cannoncino, non si possono più usare così, li usavano nelle vigne, lo usavano, quindi sono vietati adesso. Vietati solo, perché si fa solo lo scoppio? E perché disturbavano, dice, pensavano a gas, quindi si facevano a gas. Dice, disturbavano, li hanno vietati, non si usano più. Vabbè, là, io chiudo, là, sono le 8:10, mi devo fare l'insulina. Ce la sentiamo domani, se coincide. Ciao Bacchigio, buon proseguimento serata, buona cena, buon tutto. Ciao Ottore, anche a te. Tanto non è entrato nessuno, io saluto chi è in ascolto. Ciao a tutti, rilancio a Ottore, riprendi tu. Ciao, grazie, ci vediamo domani. Ci sentiamo domani. Ok, dai, riprende Bacchi. Ehi, ciao, Graziano, buona serata, buona cena, buon insulino, buon tutto. A domani se coincide, saluta la signora. Benissimo, avanti to. Un altro paio di giri e anche io me ne vado a prendere medicine. Ricambiato tutto, a tutti, ciao. Ciao, grazie. E Bacchi, tra poco già saremo un buro noi. Cosa stai usando? Quello nero? No, il portatile sto usando, il portatile della Baofeng. Sì, quello tutto nero? Sì, è quello tutto nero, quello lì sto usando. Sì, più avanti lo prendo e provo a cambiarli io. Stamattina ho ritrovato il sottore in italiano. Ah, ma di qua della stazione fissa? No, perché io c'avevo quello in inglese, c'avevo. Stamattina cercando ho trovato quello in italiano che avevo scaricato. Bacchi? Ehi, non sto uscendo. Sì, che stai uscendo? Sono disaccaricata la batteria. Ehi, mi sta facendo pip pip. La batteria allora, Bacchi, se ne andendi. Bacchi, ti conviene buonirvi la carica. Che è Bacchisio? Vabbè, c'è Bacchi. Bacchi.